persone ci sono in questo paese, quante brave persone da fare cortese, accento piemontese, difese da un marito che paga le spese, le incontri con accanto la figlia bella. Alla dieta vuole fare la modella, tutti otto, un ragazzo laureato e puoi star sicuro, non ha mai fumato, sogna di fare l'attrice, la cantautrice oppure la scrittrice, il fidanzato diventerà sicuramente un pezzo grosso, un politico, un dirigente, un mercato di droga all'ingrosso, da fratello poi possono essere fieri, ha ideali sani, ideali veri, ha già fatto domanda nei carabinieri, così potrà sfogare la sua radio sui diversi e sui neri, il padre lo vede in giro con la macchinina, la tratta proprio come una bambina piccolina, di notte gli aspetta che non ci sia nessuno alle calcagne, poi va in corso del gine, cerca una cagna, come compagna, che non si lagna, la porta in campagna, la paga dopo che si bagna, il giorno dopo. O poi a scuola la figlia accompagna e va a firmare al gazebo della Padania. Quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone. Incontri la domenica messa, la tua sera è sempre la stessa, in chiesa bella vista, così sia, la sera prima tirato le pietre dal cavalcavia, la madre impericiata fa finta di non sapere, e tutte le sere il figlio si fa le pere, dispenseranno a tutti i pochi di segni della pace, apparente è l'arma più efficace, le famiglie devono sembrare unite, da un legame sincero, dopo tre settimane l'ufficio esaurimento nervoso, rumore nero, sono in competizione per essere campioni e seguire le orme di Berlusconi. Di Berlusconi, delle brave persone, ma quante brave persone, quante brave persone, ma quante brave persone, ma quante brave persone, ma quante brave persone, quante brave persone, ma quante brave persone. Brave persone ti vogliono eliminare, quante brave persone ti vogliono isolare, non sentono quando ti aiuto, ti calpestano dopo che sei caduto, ma poi ti sorridono perché bisogna essere positivi, l'empatia chissà sono privi, scaricano l'app, vanno su WhatsApp, creano startup, tutti videomaker, tutti influencer, tutti esperti di qualcosa, tutti pronti a farti notare quanto la tua vita sia noiosa, lo seguono le regole ma sono conformisti, o sono arrivisti, si credono progressisti, patrioti che credono di onorare l'Italia, artisti corrotti, vergogna di ogni battaglia. Quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone, quante brave persone. Sto sempre meglio di te, destro non c'è Gabbana, con la pettinatura strana, ti dicono cosa fare, dicono cosa pensare, fanno il flash mob, fanno gli aperitivi, sono tutti uguali, ma si sentono creativi, vanno in palestra, vanno ad ogni festa, simpatici, incredibili, fuori di testa, non si levano mai di torno, che gente in giro oggigiorno, non si levano mai di torno, che gente in giro oggigiorno, non si levano mai di torno, che gente in giro oggigiorno.